Grazie mille. Ecco qua. Alla fine se vuoi marmellata quella. Ah, prendo anch'io. Grazie. Sì, la fine del mese è sempre l'urgenza. Allora che parla? Sì, ma che po' di caldo, un po' di. Sì, mi dà. Che bottoni? Un po' massa. Ma va per tutto. No, ma dopo, direi che è in ferie. Ma poi è lunedì, lunedì sono in ferie. Ah, lunedì vai in ferie? Lunedì ho fatto la visita a tutti gli altri. Ah, per la vitalina? Sono un po' di più.